1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora eccoci, le 7:18 minuti. Continuano ad arrivare critiche perché vi definisco debosciati. Debosciatini miei. È più affettuoso, debosciatini miei. Dai, forza! Fuori dai vostri letti, finite le vostre colazioni, che bisogna andare, andare anche oggi in questa giornata di martedì 15 settembre. Oh, Milan, brutto debosciato! A me fa piacere, a me fa piacere invece quando i nostri ascoltatori reagiscono così. Allora, oggi tratteremo vari temi, come di consueto sapete che tutto settembre andremo in onda fino alle 9:30. Parleremo di questa Europa molto timida, per usare un eufemismo, sulla questione immigrati. Avremo ospite Gianni Pittella, europarlamentare. Avremo ospite anche il sindaco di Udine, Fulvio Honsel. Ma parleremo anche di politica, ci sarà Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, alle 8:40, ospite da noi. Parleremo di tanti temi, pensate che parleremo anche di ibernazione. Mi ha molto colpito questa ragazza negli Stati Uniti che poco prima di morire si è fatta ibernare il cervello, nella speranza un domani, chissà lontano futuro, magari 300-400 anni, di poter rinascere. Guardate che ci sono italiani che lo fanno. Voi pensate che sia una follia? E ne discuteremo dalle 9 in poi. Lo fanno persone che hanno già firmato e pagato per farsi ibernare poco prima di morire, di modo da, confidando nella scienza, di poter rivivere un domani. Ma i giornali. Eccoci qui, allora, come detto, martedì 15 settembre, i titoli delle prime pagine dei giornali. Il Sole 24 Ore apre su sgravi e bonus occupati, ecco il piano per il Sud, è il progetto del governo anticipato dal Sole 24 Ore. Poi, come detto, l'Europa timida, questo aggettivo timida viene usato da Avvenire, profughi, Unione Europea timida, ma certo tutti i quotidiani si concentrano su quello che pare un vero e proprio fallimento di diplomazia dei vari stati dell'Unione Europea. Torna l'Europa delle frontiere, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica invece l'Unione Europea militari contro gli scafisti, ma Bruxelles litiga sulle quote. Il Messaggero, salta l'accordo, frontiere chiuse. La Stampa, migranti effetto domino sull'Unione Europea, Schengen vacilla. Il Giornale, l'Europa chiude le frontiere, l'Italia in balia degli immigrati. Libero, l'Europa rifila all'Italia 6 campi profughi. Come vedete, i titoli sono tutti simili, eh? Confini spinati, questo è il titolo del manifesto con la foto del filo spinato e del muro tra Serbia e Ungheria. Insomma, anche il Giorno, migranti, l'Unione Europea ci lascia soli. Un disastro. Il Fatto Quotidiano invece titola ancora sulla polemica di Renzi a vedere a New York con il volo di Stato la finale Pennetta Vinci. Dopo il superjet, le auto blu costeranno 26 milioni in più. Questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano, ma voglio partire da quello che ha detto il Papa, perché c'è un giallo, ci sono varie interpretazioni, sapete che il Papa, come abbiamo sentito nel giornale radio, è in Portogallo, ha parlato a due radio del Portogallo di che cosa? Beh, delle imposte, delle tasse e delle strutture, degli immobili posseduti dalla Chiesa. I cosiddetti conventi, che in realtà fanno anche servizio come se fossero degli hotel. Ha detto il Papa, in pratica, se un convento diventa un hotel deve pagare le tasse. Spesso il giornalismo italiano è abituato al sensazionalismo. Che ci siano molti conventi che fanno gli hotel e non pagano le tasse, questo è abbastanza accertato, e ci sono contenziosi tra i vari comuni e appunto i conventi dove questi comuni ci sono. Ma il Papa in realtà ha detto una cosa che in Italia è prevista dalla legge, cioè già la legge prevede che se un convento viene utilizzato anche per fini commerciali deve pagare per quella parte che viene utilizzata per fini commerciali le tasse. Quindi non ha detto niente di nuovo. Il fatto che lo dica però e che lo ribadisca forse crea scalpore. Eccolo qui, le parole del Papa sono queste esattamente. Quando 2 anni fa lei fece l'appello su aprite i conventi, quali risultati ci sono stati? Ecco, il Papa ha risposto così a questa radio portoghese. 4 soltanto mi hanno seguito. 1 è un convento dei gesuiti. Hanno fatto molto bene i gesuiti, ma il problema è serio. E c'è anche la tentazione del Dio denaro. Alcune congregazioni dicono no, ora che il convento è vuoto facciamo un hotel, un albergo e possiamo ricevere gente. Così ci manteniamo e ci guadagniamo. Ebbene, se vuoi fare questo, paga le tasse. Una scuola religiosa non le paga perché il religioso è esente dal pagarle, ma se lavora come hotel, che paghi le tasse come qualsiasi altra persona, se no l'attività non è molto sana. Questo ha detto il Papa e, ripeto, ha detto quello che prevede la legge italiana, cioè esenzione. Se un edificio è usato a scopo religioso, pagare le tasse se quell'edificio o parte di quell'edificio è usato a fini commerciali. Il richiamo di Francesco sui conventi, chi lavora come un hotel paghi le tasse, questo è il titolo del Corriere della Sera, l'articolo di Virginia Piccolillo, tra l'altro interpellano il direttore di Avvenire Marco Tarquinio che dice anche un'altra versione ulteriore, cioè questa, il Papa non parlava dell'Italia, era in Portogallo e parlava ai portoghesi. E comunque noi questo problema lo abbiamo chiuso, le attività a fini di lucro devono pagare. Questo prevede la legge. Il Messaggero torna su questa vicenda dicendo che solo a Roma sono evasi 19 milioni di euro. Ma vedete, la legge c'è. Poi se c'è chi evade le tasse, questo non è mica un problema né del Papa né della legge, ma di chi deve controllare e dei furbetti e di chi deve controllare e far pagare giustamente le tasse a chi magari a un finto convento e poi lo utilizza a fini commerciali. Comunque le polemiche ci sono sui giornali, le polemiche ci sono anche per questa vicenda del volo di Stato, non se ne può più, cioè stanno cercando di farmi disinnamorare di questa finale straordinaria che c'è stata, le polemiche per l'utilizzo dell'aereo da parte di Matteo Renzi che è andato a New York, ma adesso la polemica è nuova sul Fatto Quotidiano, questa invece mi interessa di più. Marco Palombi e Carlo Tecce raccontano che, altro che Superjet, arriva un nuovo appalto della Consip per lo Stato, 106 milioni per 6.000 auto blu. Come si sa, scrive il Fatto, noi siamo renziani della prima ora, il problema è che c'è un Renzi 1 e il Renzi 2. Il Renzi 2... dicono che è ora di piantarla col populismo, nuova definizione ufficiale dei gesti simbolici, e dunque se il governo Renzi 1 tagliava le auto blu, le metteva in vendita su eBay e si vantava anche di averne cancellate 3.000 in pochi mesi, l'esecutivo Renzi 2 a dicembre 2014 ordinava un appaltone Consip su base d'asta 106 milioni di euro per il noleggio di 5.900 auto per la pubblica amministrazione. È la vita. Così scrive il Fatto Quotidiano di questo appalto Consip per lo Stato, 106 milioni per 5.900 auto. E dunque queste famose auto blu che andavano tagliate, non c'è il rischio che aumentino? C'è il rischio che aumentino anche gli stipendi dei consiglieri regionali della Campania. Udite, udite, non è che c'è un rischio, è una proposta, è una richiesta. E l'ha fatto a un personaggio che non ti aspetti da questo punto di vista, Vincenzo De Luca, il governatore della Campania. Vincenzo De Luca, come racconta Simone Di Meo sul Giornale a pagina 8, lo sceriffo rosso aumenta la paga ai politici, o meglio, lui non l'aumenta, ma vorrebbe aumentarla. Ebbene sì, De Luca ha fatto questa proposta. Bisognerebbe equiparare i compensi dei consiglieri regionali a quello dei parlamentari. E anche il Giornale si chiede, ma come? Ma dov'è finito il fustigatore dei malcostumi della politica che appena 3 anni fa bollava come cialtroni e buffoni quelli che non si tagliavano come da lui proposto lo stipendio di 3.000 euro? E pensare che subito dopo l'elezione De Luca aveva fatto ben sperare annunciando la vendita di una presunta auto blu di lusso che lui si vergognava di usare. Sull'uscita dell'ex sindaco di Salerno c'è da registrare un imbarazzato silenzio. Le opposizioni non hanno fatto le barricate, anzi, pure i grillini hanno prodotto poco o nulla. Qualche soldo in più evidentemente fa comodo a tutti. In consiglio regionale, scrive il giornale, non è che ci si massacri di lavoro d'altronde, ma effettivamente la proposta è questa. Di De Luca ha proposto, con qualche ragionevolezza e qualche rispetto tra di noi, sono per contrastare duramente questa deriva demagogica e populistica in relazione al ceto politico italiano. Inaspriamo le sanzioni, ma rispettiamo quelli che si assumono le responsabilità di passare la vita a tentare di governare territori nei quali è più facile scappare via. Con questa motivazione, ha detto, bisognerebbe alzare il compenso attuale, che è di 6.000 euro, al livello dei parlamentari. Vincenzo De Luca, soldi, 9 milioni di euro. 9 milioni di euro è ciò che si è perso al casinò un broker di Forlì, solo che non erano soldi suoi, erano soldi dei clienti, soldi dei parenti, soldi che racimolava qua e là. Alessia Pedrielli lo racconta a pagina 14 di Libero. Si è giocato 9 milioni di euro non suoi al casinò e ha preferito confessarlo ai finanzieri piuttosto che alla moglie. A un certo punto è andato disperato questo 61enne di Forlì, promotore finanziario, per la verità è originario di San Piero in Bagno. È andato dai finanzieri, scoppiato in lacrime, dicendo: non voglio tornare a casa, mi sono giocato 9 milioni e 400 mila euro non miei al casinò. Evviva, ma eccoci qui, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata lo trovo oggi sul Corriere della Sera. È una classifica europea, udite udite, soprattutto voi genitori, di chi tra i 25 e 34 anni abita ancora con mamma e papà. In Italia, sapete, tra i 25 e i 34 anni quanti sono percentualmente quelli che vivono ancora con i genitori? Sono il 46,6% degli italiani. Per carità, adesso sento già la lagna, non si trova lavoro, la disoccupazione giovanile, è difficile. 46,6% degli italiani tra i 25 e i 34 anni vivono ancora con mamma e papà. Sapete quanti sono in Danimarca percentualmente? L'1,8%, da noi il 46,6%, in Danimarca l'1,8%, in Francia, paese un po' più vicino a noi, l'11,5%, da noi il 46,6%. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Don Oman, Sure e Paisan. Cervele e Stifie, Trestine e Frutire, adesso il Milan, che lei studi giornalding, dialetto milanese. Evviva, evviva, qui giochiamo in casa, mandateci le vostre sigle in dialetto allo 0246524492. Forza, forza, cari amici miei, allora... L'Europa che ha fatto? L'Europa ha fatto un disastro, si sono incontrati, non c'è nessun accordo, non solo c'è nessun accordo sulle quote, c'è la volontà da parte di molti di ripristinare Schengen, di far tornare le frontiere, insomma un'Europa quanto mai divisa al momento decisivo di trovare un accordo. Le quote in forse, chiusi i confini, questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera, che sintetizza... Sì, l'accordo politico per la redistribuzione dei rifugiati, ma l'impegno è vincolante solo per i 40.000 già proposti a luglio, mentre Juncker voleva allargare a 160.000 persone la questione della ripartizione in quote. E poi si parlava di multe e compensazioni economiche per chi rifiutava di prendersi una parte di questi migranti. In realtà queste multe paiono sparite. C'è solo una volontarietà. In più c'è il passo indietro della Germania, sempre più chiaro dopo che il ministro dell'interno già ieri aveva detto c'è stato un effetto, com'è che lo chiamano? L'effetto aspirapolvere. in troppi vogliono venire da noi dopo che Berlino ha detto accogliamo 500.000 profughi, ecco all'anno, ecco che l'effetto aspirapolvere è una dichiarazione del genere, ha detto tutti in Germania e tutti vogliono andare in Germania, quindi pressione sulle frontiere, tutti che vogliono andare nelle città tedesche di confine, dove ovviamente adesso anche la Merkel dice non possiamo reggere tutta questa pressione, dunque ripristinate per favore i controlli di frontiera. Insomma, per riassumere, un disastro totale. Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 3 del Corriere della Sera, l'Italia adesso è costretta ad attrezzarsi, a mobilitare poliziotti da schierare al confine. Le parole scandite dal ministro all'interno Alfano in una pausa della riunione con tutti i colleghi europei fanno ben comprendere l'irritazione per l'esito del vertice, soprattutto per quel che potrà accadere nei prossimi giorni, perché di fronte alla minaccia del francese Bernard Cazeneuve di sospendere Schengen, il titolare del Viminale, e cioè del ministro dell'interno italiano, ricorda che non è chiudendo le frontiere che si risolvono i problemi, noi facciamo di tutto perché le cose funzionino. Ma il concetto è questo, scrive il Corriere, ora sono pronti i rinforzi di polizia, c'è un piano italiano per le frontiere. Insomma, dobbiamo riblindarci, questa è la risposta dell'Europa solidale, unita e coesa di fronte a questa emergenza. In Italia c'è, a proposito di questa vicenda migranti, la solita polemica, sono riaperte le scuole e succede tutti gli anni, ci sono delle concentrazioni di stranieri in alcune classi, soprattutto elementari, troppo elevate. Certo, il caso di Brescia, dove due classi elementari sono composte totalmente da stranieri, è un caso più unico che raro. A Brescia solo immigrati in due prime elementari, non era mai successo. Ed ecco allora che Salvini dice mettiamo un tetto alla presenza degli stranieri. Per la verità il tetto c'è già, è il 30% di stranieri per classe italiana, un limite che fu fissato da Maria Stella Gelmini, all'epoca ministro dell'istruzione, quindi il tetto c'è già. Poi però le situazioni sono a volte diverse, quando ci sono tutti stranieri iscritti, uno che fa? Salvini risponde così, anche su Libero c'è questa vicenda, troppi stranieri a scuola, Salvini serve un tetto, ma ripeto c'è già un tetto alle presenze, anche l'apertura del Giorno, il Giorno mette la foto in prima pagina proprio di alcuni stranieri che siedono sul banco della prima elementare, sotto il titolo l'Unione Europea ci lascia soli, c'è questa vicenda, questione di classe, Brescia, solo stranieri in due aule, Salvini va all'attacco. A proposito di attacco, parla anche quell'albergatore invece che è stato molto criticato, se non minacciato di morte, in provincia di Sondrio. Lo fa in un'intervista su Repubblica, intervistato da Paolo Berizzi, dice ho paura io? Ma va, zero, mi ringalluzziscono queste minacce, vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro, è una persona che ospita 71 migranti, 37,50 euro al giorno per ogni migrante, a Cosio Valtellino in provincia di Sondrio. Mi ringalluzziscono queste lettere di morte, gente disperata che si fa sobillare, ho denunciato l'episodio, ma pensi che addirittura uno è qui del paese, ha messo pure la foto, il suo nome e cognome scrivendo bruciamo quell'albergo, sta a 2 minuti da casa mia. Dice questo albergatore Giulio Salvi, io peraltro votavo Lega, ma non hanno combinato niente nemmeno per le leggi sulla certezza della pena. Lui li chiama i miei negretti, i 71 che ospita. Ah, però, i negretti, li chiama così. Beh, complimenti. Allora, lasciamo la questione immigrazione per parlare di politica. C'è un dibattito sull'articolo 2 del Senato. Il tema è quello, come eleggere o come sarà formato il nuovo Senato. Deve essere eletto dal popolo, deve essere eletto dai consigli regionali, i senatori. E questo è il grande tema che appassiona tutti, soprattutto lor signori, la politica. Ne parleremo con Calderoli alle 8.40. Oggi il Corriere della Sera fa un'intera pagina. Senato! Col punto di domanda ci sono 45 faccine almeno. chi decide la partita. Monica Guerzoni racconta la posizione di 50-60 parlamentari dissidenti, i renziani, quelli di centrodestra che potrebbero votarlo, quelli del nuovo centrodestra che potrebbero per questo rompere con Alfano e votare l'articolo 2. Renzi, che ieri si è accomodato da Lilli Gruber, dice l'articolo 2 è un capitolo chiuso. Ha incontrato anche il capo dello Stato Mattarella, secondo Repubblica addirittura nel retroscena di Francesco Bei, Renzi è pronto ad andare avanti fino alla fine e se vado sotto in Parlamento con questo voto si va alle urne. Questo è quello che avrebbe confessato ai suoi: se vado sotto si va alle urne. Sta di fatto che su questo articolo 2 si discute ancora moltissimo e staremo a vedere anche la proposta di Calderoli. C'è una proposta anche di Franco Bassanini. La proposta di Franco Bassanini è questa: per modificare l'articolo 2 non serve modificare l'articolo 2, basta modificare di quella riforma l'articolo 35 che modifica l'articolo 122 della Costituzione. È tutto chiaro, no? Ce lo spiega tutto Mauro Meazza, che in queste cose è il principe, il re, il capolista, oserei dire. Mauro, buongiorno, eccoci. Buongiorno. No, ma non vorrei aggiungere emendamento ad emendamento, sì, a questo, esatto, punto. Fai tu, perché... un emendamento che cambia l'articolo 2, che modifica l'articolo 35 per modificare il 122 della Carta Costituzionale. Però, se capisco bene, la modifica vorrebbero inserirla per trovare un compromesso non più nell'articolo 2, ma in un altro articolo, sì, della nuova legge. Mi sembrava di aver letto così. Sull'articolo 35, sì, che modifica, sì, l'articolo 122 della Carta Costituzionale. A sua volta, sì. È certo. Senti, vorrei segnalarti che sul Sole 24 Ore di oggi stiamo ragionando di che cosa ci sarà per gli investimenti nel sud dell'Italia. Sì, mi sembra, sì, forse che la cosa possa appassionare un po' di più. No, con tutto il rispetto, no, naturalmente, per la forma, sì, sì, per la forma, sì, di governo e l'assetto costituzionale, che sono importantissimi, però ecco, forse il dettaglio magari di possibili sgravi per il mezzogiorno, come lo racconta Marco Mobili, magari più interessante, perché c'è, sì, un progetto, insomma, abbastanza articolato, sta prendendo corpo e dovremmo vedere poi nella legge di stabilità. Vediamo, si parla di, appunto, riduzioni di imposte, di diminuzione del costo del lavoro, ma trovi tutto oggi sul sole 24 ore. Tra l'altro, ho sentito che ti appassionava questa dichiarazione di Papa Francesco, uh-huh, sul pagamento delle imposte da parte dei conventi. Allora, ti spiega tutto Gianni Trovati, perché c'è un limite preciso individuato, che è appunto il limite dell'attività commerciale rispetto ad altre attività, c'è, svolte dal convento. I comuni non sono stati solertissimi, si dice solertissimi? Solerterrimi, forse. Solerterrimi, sì, non lo so. Ci piace. Insomma, così. Se la sono un po' presa comoda nella contestazione di eventuali obblighi, hanno però ancora tempo, la norma è del 2011-2012, quindi insomma danno 5 anni di tempo per fare i controlli, vedremo se adesso spronati da Papa Francesco faranno qualche tipo di controllo in più. Volevo dirti una cosa importantissima invece: ci sono 30 giorni in più per la voluntary discharge. Attenzione, sì, caro Angelino, attenzione, caro Milan. Mi viene ancora da dire caro Milan. No? Sì, no, è così, così. Mi hanno detto anche: se sei malato, cerca di guarin in fretta. Questo non è malissimo. Non è malissimo. No, c'era di meglio, si poteva fare di meglio, ma vabbè. Allora, ti volevo dire: non ci sono 30 giorni in più per consegnare, per presentare l'istanza. Tu l'istanza devi presentare al 30 settembre, esatto, caro Angelino. Ecco. Devi dirlo all'agenzia entro il 30 settembre. Volundari discrasciur, che cavolo vuol dire? Mannaggia la puttana, spiegatevi bene. E adesso ti spiega tutto, ecco. Poi. Allora, la volundari discrasciur è l'operazione che ti consente di riportare nella legalità i capitali o i beni, insomma, che tu hai dimenticato di segnalare al fisco e hai lasciato magari all'estero. Capito, no? Caro Angelino. Ecco, li puoi riportare nella legalità, riportandoli, sì, anche in Italia, se la cosa ti piace. Allora, devi però dirlo, caro Angelino, entro il 30 settembre all'Agenzia delle Entrate. Il tuo commercialista deve dirlo. Poi però ti hanno concesso una trentina di giorni in più per completare la pratica. Per presentare i documenti. Però il 30 settembre devi dirlo, capito? Sì, però attenzione perché nel contempo ti chiedono anche, siccome adesso c'è un termine per andare indietro con i controlli, ti chiedono, ecco, gli anni però che non ci hai, cui non ci dai più documenti, ce li devi comunque giustificare. Ma qui la cosa si complica un po' più articolata, e non vorrei adesso annoiare Angelino, lo invito a leggere Norme e Tributi questa mattina. Tra l'altro su Norme e Tributi abbiamo anche il valore del TFR di agosto. Non è importante che tu capisca, Alessandro, come al solito. Ti segnalo una importante decisione della Cassazione. Non si può obbligare il lavoratore al lavoro nella festività infrasettimanale, civile o religiosa. È un caso di una dipendente che non ha voluto lavorare nella festività dell'Epifania. Il 6 di gennaio cadeva infrasettimanale e viene precisato che ci deve essere un accordo tra le parti, non può essere in forza di contratto. Ma te lo spieghiamo in Norme e Tributi. Naturalmente oggi è martedì, condominio. Ieri era lunedì, abbiamo parlato del derby, oggi non ne parliamo perché è già martedì, è inutile che riparliamo del derby, ti pare, caro Milan? Mi pare saggia come decisione. Non riparliamo più del derby, ma ti voglio dire che essendo martedì oggi c'è la pagina del condominio. Oh, bravissimo, e si parla del riscaldamento perché incombe, si avvicina la stagione dell'accensione dei riscaldamenti. Gli obblighi, le zone, le date di accensione oggi sul Sole 24 Ore. E tutto ciò premesso, caro voluntari di Scrajur, traffico! Alessandro Milan, sembra un bischero, ma invece c'ha due belle palle, sembrando poponi. Bravo, bravo Alessandro. Grazie, grazie caro ascoltatore. Sembra un bischero. Allora, Beppe Grillo è stato condannato per diffamazione del professor Franco Battaglia a un anno di carcere. Sapete che lui ha scritto sul blog andrò in prigione come Mandela e Pertini. Se Pertini e Mandela sono finiti in prigione potrò andarci anch'io per una causa che sento giusta e è stata appoggiata dalla stragrande maggioranza degli italiani al referendum. Ora c'è da dire che il Corriere della Sera spiega con Luigi Ferrarella il puzzle di norme che non lo porterà in carcere. È tutta una serie abbastanza complicata di sconti di pena, indulti, insomma la conclusione, ma leggete, Luigi Ferrarella lo spiega molto bene tecnicamente, perché Beppe Grillo anche in caso di condanna confermata non andrà mai in carcere, mentre Franco Battaglia, saluto tutti gli amici anche che ci guardano a questo momento in diretta su Periscope, Franco Battaglia viene intervistato dal Giornale, lui che sul Giornale peraltro scrive, ogni tanto collabora. La rivincita di Battaglia è questa: questo signore deve essere fermato da qualcuno, dice, perché lui ha una lunga collezione di condanne e procedimenti, sempre per diffamazione è stato condannato per aver usato parole irriferibili nei confronti di Rita Levi Montalcini e ancora verso Mediaset e deputati vari del nostro Parlamento. Ma quale indulgenza meriterebbe? Ci siamo confrontati ad anno zero nel 2011 e lui non ha fiatato davanti ai miei ragionamenti pro-nucleare. Poi Grillo va a San Benedetto del Tronto e mi attacca con toni volgari, rozzi, miseri, dicendo che io sono pagato dalle multinazionali, mentre io dico solo quello che penso. Beh, ma ora rischia il carcere, non è troppo, chiede il Giornale, e qui Battaglia dice: su questo posso essere d'accordo, anche se il giudice si è limitato ad applicare il codice. Ma si deve render conto che le parole sono pesanti. Qualche tempo dopo il suo comizio, la mia auto è stata presa a sassate. Ricordo che un dirigente dell'Ansaldo, Roberto Adinolfi, è stato gambizzato come manager di un'azienda impegnata nel comparto nucleare. Così Franco Battaglia sul Giornale dice: ecco la rivincita, mi spiace, ma andava fermato Beppe Grillo. A proposito, sapete che forse arriva la Digital Tax? Lo ha annunciato Matteo Renzi nel 2017, ieri era da Lilli Gruber, la Digital Tax. Dopo che per due anni la legge europea non è arrivata, pensiamo a una digital tax per colpire con meccanismi diversi e far pagare le tasse nei luoghi in cui sono fatte transazioni e accordi da multinazionali come Google e Apple. Si riferiva a questo. Tra l'altro il Giorno fa notare: ma come? Renzi, che giravolta fai? La giravolta del leader PD, eccolo qua, la digital tax nel 2017, ma proprio lui che era contro la la com'è che erano chiamata prima, la Google Tax. No Google Tax, aveva detto in passato, quando aveva proposta per esempio Boccia nel 2014, e Renzi diceva, avevamo detto no Web Tax, siamo stati di parola, e adesso la chiamiamo Digital Tax e va bene. La Web Tax no, la Digital Tax la chiamiamo diversa, sì. Vabbè, andiamo in chiusura. Il Papa ha detto che bisogna diffidarsi degli amici, a volte falsi, che ha intorno il Papa. E allora il giorno per commentare questa notizia intervista Pippo Baudo. Pippo Baudo, una pagina per dire anch'io. Sono stato un anno e mezzo con falsi amici che non mi chiamavano. Guardavo il telefono e non mi chiamavano. Guardavo il telefono e non squillava. Lo guardavo, non squillava. Lo guardavo, non squillava. Ma chi se ne frega!